Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:09, buona domenica da Stefano Gallarini, Il riposo del guerriero come ogni domenica vi accompagna fino a mezzogiorno, anche se devo dire che vorremmo che si riposasse la terra, nel senso che si fermasse un po' e stesse lì, anche perché io leggevo proprio ieri una dichiarazione di Gary Black, che è un professore dell'università di Berkeley, esperto del Pacific Earthquake Engineering Research Center, ovvero il centro di ricerca che sta studiando i terremoti nel Pacifico. E lui dice che entro 30 anni arriverà il famoso Big One, quel terremoto, insomma, che Los Angeles in qualche modo sta aspettando e che dovrebbe addirittura sommergerla. Quindi quando si leggono queste cose, mentre sta succedendo quello che sentite in Giappone, tra l'altro avremo delle finestre che vi aggiorneranno nel corso del riposo del guerriero, uno così pensa di voler fare qualche cosa. E allora il riposo del guerriero oggi cercherà proprio di capire cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo per aiutare la terra, aiutare noi, vivere in un modo sicuramente più sostenibile, una vita più sana da tanti punti di vista, non solo sana per noi ma sana proprio per l'ambiente che ci circonda, cercare di sviluppare anche un consumo più critico. Di questo oggi ci occupiamo nel riposo del guerriero, cercheremo di cambiare vita, almeno nel pensiero, poi qualcuno l'ha fatto sul serio e qualcun altro vorrebbe farlo, ma capisco che non sia assolutamente facile. Allora i numeri, gli sms per i vostri messaggi, se volete raccontarci nel vostro piccolo che cosa fate per cercare di condurre una vita più sostenibile e cosa fate anche quando consumate, magari in modo critico. Quindi gli sms al 349-238-6666 e poi il numero verde, perché potete fin da subito prenotarvi, c'è anche oggi il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Per risolvere il mistero avrete degli indizi musicali, più indizi ascolterete e più il premio si abbasserà. La risposta, e questa volta così diciamo il ventaglio si è un po' si è aperto, nel senso che non sono soltanto le notizie della settimana o personaggi famosi, ma anche cose che ci appartengono particolarmente famose. Cito una volta per tutti il gioco del Monopoli, che è stata la risposta di qualche settimana fa. E allora siamo pronti a cambiare e cominciamo con una bellissima canzone di Fiorella Mannoia. Eccezionale quando canta, ha un'energia incredibile, un modo proprio di esprimere le cose che emoziona. Spero sia così anche per voi. Si cambia per amore, è vero, ma non solo per amore verso gli altri o perché un amore finisce, ma anche perché un amore nasce, o c'è amore per se stessi o verso appunto il pianeta che ci dà vita tutti i giorni. Di questo parliamo, dei nostri cambiamenti, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Strade in diretta. Ancora pochi veicoli in viaggio e la neve fino a bassa quota, a cui occorre prestare particolare attenzione tra Liguria e Piemonte. Sulla 6 la Torino-Savona, tra Niella Tanaro e Savona, sulla 26 dei trafori tra Masone e l'innesto con la 10 la Genova-Ventimiglia. Piove sul resto del nord e sulle regioni tirreniche del centro, e al centro e al sud soffia un gran vento. Sulla 3 Salerno-Reggio Calabria, tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria, il transito è sconsigliato ai furgoni e ai caravan. Noi torniamo tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. E mentre un nostro ascoltatore, immagino Stefano di Roma, scrive: 50% di telelavoro, auto a metano, acquisti a chilometro zero e raccolta separata. Questo è quello che fa per la sua vita sostenibile. Giovanni Petrini, ciao, buona domenica. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Eccoci qua. Allora, mancano due settimane a questa iniziativa, fa la cosa giusta, è la Fiera Nazionale degli Stili di Vita Sostenibili, sarà a Milano, la Fiera Milano City, dal 25 al 27 marzo. Chiaramente partiamo da te, perché voi avete raccolto, raccoglierete anzi nel caso della Fiera, che quest'anno è all'ottava edizione, se non mi sbaglio. Sì, esattamente. Giusto. Avete raccolto... proposte, diciamo così, e anche esperienze di vita di persone che hanno cambiato a un certo punto. Sì, più che proposte, proprio soluzioni concrete, quotidiane, cose molto facili da applicare, pratiche con cui ciascuno di noi può migliorare la propria qualità della vita, il proprio benessere individuale. E queste soluzioni hanno anche il vantaggio di rispettare l'ambiente, di aiutare anche le persone che producono, aiutare la comunità, per esempio, in cui ci troviamo. Quindi è una fiera che sostanzialmente comunica ai cittadini che attraverso un piccolo gesto, un piccolo cambiamento, che comunque implica un piccolo sforzo, perché ogni volta che ci mettiamo in discussione comunque abbiamo da superare una piccola difficoltà di partenza, si può migliorare la complessità del mondo in cui viviamo. E questo è quello che si trova a fare la cosa giusta, perché ci sono laboratori pratici dove, per esempio, si può imparare a farsi un piccolo orto sul proprio davanzale, sul proprio balcone, e come si può invece imparare da cose che avremmo buttato, abbigliamento vecchio, a creare per esempio una borsa o un accessorio. Certo, quindi recuperare quello che invece avremmo buttato via, no? Adesso mi viene in mente una cosa, tu dici l'orto nel balcone di casa propria. Per piccolo che sia, possiamo, non so, anche il semplice basilico, no? Faccio un esempio di qualcosa di praticamente semplice. Bravo. Ecco, però poi hai sempre qualcuno che ti dice, sì, ma con quello che poi, con l'aria che poi c'è a Milano, che cosa vuoi che ti venga su, che profumo vuoi che abbia il basilico? E così, e tu ti demoralizzi e dici, ma forse ha ragione. Ma intanto non tutti viviamo a Milano, fortunatamente, quindi questo... Ho detto Milano per dire una grande città, ovviamente, no? No, perché certo, certo. Ma dunque sicuramente, però la questione non è tanto nelle proprietà organolettiche del basilico, che non sarà mai come il basilico ligure o l'oli, per esempio. Ecco. Certo. La questione è che in questo momento, se mi sembra, noi dal nostro osservatorio ci sembra che ci sia una volontà di riacquistare senso rispetto a chi siamo, anche alle dinamiche mondiali che ormai ci colpiscono, le informazioni. Viviamo in un mondo in cui siamo tutti interconnessi, però forse noi come individui e come comunità siamo un po' più spersi di una volta. Allora coltivare qualcosa sul proprio terrazzo significa ritrovare un rapporto diretto con le proprie mani, con la propria esperienza diretta, e quindi sostanzialmente rivalutare la propria capacità di agire per un piccolissimo cambiamento. Però quel basilico magari non sarà buono come quello appunto ligure, però per noi che l'avremo fatto crescere avrà un sapore particolare. Ma certo, il fatto è che ci cambia il punto di vista, no? Perché cominci ad avere amore per qualcosa che magari prima ti sfuggivi e davi per scontato. La forza è proprio qui. Io lo dico semplicemente perché ci sono, non dico i detrattori, no? Però è vero che si vive in un meccanismo, anche di consumo se si vuole, che alla fine ti fa perdere proprio il centro e il punto di vista. E succede che uno trova tutte le giustificazioni possibili per non impegnarsi a fare. Vale anche per la raccolta differenziata, no? Quante volte purtroppo si sente, io non la faccio, non do tanto peso, tanto poi le cose vanno tutte insieme, no? E allora cosa la faccio a fare? Però è proprio il ragionamento che uccide poi alla fine della questione. Per cui è bello invece cominciare anche da poco, appunto col basilico sul balcone in una grande città, per esempio, per cercare di cambiare il proprio punto di vista, che è quello che cerca, ecco, di farsi... Posso raccontare un aneddoto? Sì, come no, devi. Prendendo un taxi recentemente, ho preso una Prius, qui a Milano ci sono molte... è un'ibrida, è un'auto ibrida, e ho chiesto al tassista come mai avesse scelto un'auto ibrida, al di là di alcuni aiuti che il Comune di Milano ha dato. Incentivi, lui non ha scelto la macchina perché era un ambientalista, l'ha scelta perché voleva una macchina col cambio automatico e che consumasse poco in determinate circostanze, e il concessionario gli ha detto la migliore è la Prius, e quindi lui l'ha presa. Però dopo, avendo questa macchina tutti i diagrammi che gli dicono i consumi momentanei, quando vai in elettrico, ha iniziato a sviluppare una cultura del risparmio e mi raccontava che adesso non riesce più a non fare la raccolta differenziata, che adesso non riesce più a comprare tantissime cose al supermercato e poi buttarne via la metà, perché quell'esperienza, quel bisogno individuale si è trasformato in realtà in un cambiamento di visione. Infatti è proprio il famoso punto di vista, no? Come da qualche parte bisogna pur partire, e allora cerchiamo oggi con la puntata di far capire da dove si può partire. Gli ascoltatori, tra l'altro, sono sempre più avanti di noi e appunto stanno già scrivendo le loro proposte. Anna Maria scrive: l'auto è passato, la bici è il futuro, parleremo anche di bicicletta oggi sicuramente. Tu avevi citato i cittadini, Giovanni, perché mi pare che con l'edizione dell'anno scorso tu abbia visto una crescita veramente esponenziale dei visitatori della fiera. Sì, assolutamente, e questo così è proprio il segno di quel bisogno di senso di cui parlavo all'inizio. Stiamo vivendo chi più chi meno delle crisi profonde, quella ambientale, quella economica. Ecco, questo scenario secondo me veramente sta spingendo tutti a cercare due cose. La prima sono delle relazioni. Quando noi leggiamo dello scandalo della mozzarella blu della Germania, sì, qual è il problema? È che io non saprò mai chi ha prodotto quella mozzarella, quindi c'è una sorta di impunità, non c'è più un legame diretto tra chi produce e chi consuma. E questa cosa è alla base dell'economia che poi noi mettiamo in mostra invece a fare la cosa giusta. Questi due protagonisti della società, del benessere collettivo, devono conoscersi, perché è il miglior modo per avere un rapporto fiduciario, un rapporto di reciprocità e quindi di responsabilità. La crisi economica, la crisi finanziaria, d'altra parte, è derivata anche da queste cose qui, cioè non si sapeva più una persona cosa stava comprando, quando investiva, dove i suoi soldi dove andavano, eccetera. Quindi un bisogno forte di relazione diretta. Dall'altra parte è questo anche bisogno di azione. In un periodo che va verso l'informatizzazione, in cui si diceva lavoreremo meno e tutto il resto, in realtà c'è forte un bisogno di ritornare a fare le cose con le mani, a essere anche in piccole esperienze protagonisti di sé. Poi, come poi racconterete, ci sono persone che fanno proprio invece una scelta decisiva, quindi abbandonano la loro vita tradizionale e ritornano in campagna, ritornano in sella una bicicletta, eccetera eccetera. Larissa Meani, guarda, sta ascoltando la trasmissione in questo momento, tra poco l'avremo come ospite e lei insomma ci racconterà già la sua esperienza. E mi veniva un po' da sorridere quando dicevi lavoreremo meno, no? E perché quando sono stati inventati il computer sono stati certo inventati per dare la possibilità agli uomini di avere più tempo libero, e quindi lasciando alle macchine, no, il compito di svolgere determinate funzioni e avere quindi più tempo per loro stessi. E invece è successo il contrario, cioè il computer ci permette di fare cose più velocemente e quindi se ne fanno di più. Quindi è incredibile come tutto si sia ribaltato, quindi mi viene un po' da sorridere. Questo modello però culturale, a me sembra, i numeri di fare la cosa giusta nel loro piccolo ovviamente, ma sono veramente tanti le evidenze che inizio a vedere attorno a me, secondo me mostrano un po' invece la corda di questo modello, che è un modello che sta un po' stressandoci tutti, nel senso più ampio di questo termine. Quindi io trovo che lì sta il successo della fiera, cioè sostanzialmente l'occasione per una volta all'anno di stare in un contesto tra l'altro familiare, dove ci sono le animazioni per i bambini, dove si può fermare a mangiare, ci sono i ristoranti, gli spettacoli serali, quindi in un contesto assolutamente piacevole, in una grande casa collettiva. Ecco, si può però venire a trovare delle soluzioni che rispondono a bisogni che tutti noi abbiamo nel nostro profondo. Ecco, io l'ultima domanda che voglio farti è questa, Giovanni. Capire le età, cioè se, non so, sono di più i trentenni o sono di più le persone dai 60 in poi, oppure se non c'è una differenza, e se più uomini o donne. Dunque, sì, questo sono assolutamente più donne che uomini, i nostri visitatori, ma in maniera quasi due terzi, un terzo. Quindi tanto, insomma, c'è la differenza, la si nota, ecco, sì, si vede. Sì, assolutamente, e per quanto si stia un po' allargando la forbice, il nostro visitatore tipo è una persona che ha dai 30 anni ai 50 anni, che è, guarda caso, l'età in cui, per esempio, si hanno dei figli e dei bambini piccoli. E questo, secondo me, è fortunatamente una delle cose che poi ci porta un po' ad uscire dal nostro egoismo e dal nostro, a volte, atteggiamento parossistico rispetto al lavoro, alla carriera, al successo. E per quanto poi noi raccontiamo di storie e di esperienze imprenditoriali che hanno avuto successo e che stanno creando ricchezza, ecco, però diciamo che avere un figlio, che tra l'altro, guarda caso, è stato qualcosa che per molti anni si è fatto molto poco in questo paese, è assolutamente quella scintilla che ci porta a ragionare un po' più sul chi siamo noi come complessità. E infatti il nostro pubblico è proprio quel segmento. Certo, l'attenzione per quello che sarà il nostro futuro, anche quando non ci saremo più, no? Perché così lasciamo un po' l'egoismo alle spalle. Ma che bello, meno male che ci hai dato un po' di energia, ne avevamo bisogno, ma questo mi fa piacere, farà piacere agli ascoltatori che continuano a scrivere. E devo dire che molti si danno davvero da fare e ci piace. Sì, grazie. Grazie Giovanni Petrini, e voglio ricordare la Fa la cosa giusta 2011 dal 25 al 27 marzo alla Fiera Milano City. Ovviamente su internet trovate tutte le informazioni. E noi abbiamo Larissa, abbiamo Cristina adesso, è già pronta. Cristina, ciao. Ciao, ciao. Sì. Eccoci per gli aggiornamenti su quello che sta accadendo in Giappone in questo momento. Sì, sì. Noi partiamo sempre dai dati, quelli ufficiali, quelli che sono stati verificati. Si parla di 1800 tra morti e dispersi, sono 300.000 gli sfollati, però ci sono altre 11.000 persone scomparse nelle due prefetture più battute dallo tsunami, cioè Miyagi e Fukushima. Ormai la polizia comincia a darle per morte, ma appunto non c'è ancora una conferma ufficiale. Quanto a due giorni dal terremoto che ha colpito la costa nord-orientale del Giappone, possiamo dirvi: l'area di Sendai, la capitale della prefettura di Miyagi, è la più disastrata. Questa donna, che si chiama Yosue Shuma, è sopravvissuta e racconta alla CNN quanto ha visto. Racconta di essere sopravvissuta perché viveva in un'area sicura, ma dice di aver visto spazzare via le case attorno. Non potevamo muoverci, dice: posso raccontarvi solo quello che vedo, che ho visto, macerie e distruzione. Le chiedono i giornalisti che cosa può dire, cioè se c'è qualcosa che può dire alla comunità internazionale, cioè di cosa hanno bisogno ora le persone di Sendai. E lei all'inizio poi sentire rete risponde: acqua, cibo, ci sono tante persone da aiutare, ci sono persone che hanno perso la casa, che hanno bisogno d'aiuto. Ma poi sentirete la commozione che prende il sopravvento in questa persona giapponese, che, come stiamo vedendo, il Giappone sta manifestando un grande contegno rispetto a questo dramma. Eppure anche in questo caso ovviamente l'emozione prende il sopravvento e dice: più di tutto abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di aiuto. Come giusto che sia, poi I think most of them, they are the ones who need help. Ecco, quindi questo ve l'abbiamo fatto sentire perché per farvi capire quello che si sta vivendo in queste ore in Giappone, perché appunto dietro i numeri poi c'è un vero dramma che sta colpendo migliaia di persone. Per quanto riguarda gli italiani, tra ieri e oggi sono stati contattati altri 7 italiani dei quali si erano perse le tracce, portando a 10 il numero dei connazionali residenti in Giappone che mancano all'appello appunto dopo questo terremoto che ha colpito il paese. Ovviamente noi stiamo continuando a raccogliere tutto il materiale possibile, stiamo contattando tutte le persone appunto che possano darci informazioni rispetto a questa notizia, e ti chiederemo la linea nel caso ce ne fosse bisogno. Adesso ti rilasciamo appunto al tuo programma. Grazie davvero anche di averci fatto ascoltare un po' di emozione, perché in effetti abbiamo visto il modo di comportarsi e un po' ce l'aspettavamo anche, però poi sai, una volta accaduta la cosa prendi coscienza e poi arriva l'anima a parlare, e quindi quella ovviamente c'è per tutti. Grazie Cristina, ci risentiamo più tardi. Io chiedo a Larissa Meani di avere un po' di pazienza, sarà la nostra prossima ospite tra pochissimo. Il riposo del guerriero. Continuiamo a parlare di vita sostenibile, di consumi critici sicuramente. Intanto arrivano anche i vostri commenti. Guido dice: la voglia di sapere, la volontà di far conoscere che manca. Io non credo, perché iniziative come quella che abbiamo appena raccontato credo che servano proprio a far conoscere. E anche il fatto che i cittadini che vanno a vedere fiere di questo tipo, come fa la cosa giusta, siano sempre in aumento, e un aumento esponenziale dice che c'è anche voglia di conoscere. Quindi io non sono concorde, ho una visione, devo dire, più ottimista da questo punto di vista. E ancora c'è chi scrive: la felicità si ottiene forse per sottrazione, e quindi mi devo chiedere: ma mi serve davvero? E poi da lì si può partire. Larissa Meani, ciao, buona domenica. Buona domenica. Allora, Larissa, a un certo punto ha cambiato la propria vita. Tu lavoravi nel marketing, giusto? Sì, sì. Sì, io ho lavorato 10 anni nella new economy e quindi lavoravo nel marketing, in internet, in aziende. Perfettamente inserita nel nuovo millennio, quindi. Assolutamente, okay. sì, assolutamente, non appartengo alla civiltà contadina. E sono diciamo una donna del mio tempo. A un certo punto un'ape ti appunto, cos'è che è successo? Un'ape mi appunto il cuore, sì. Ecco, io sono ho scoperto la vita delle api, ho scoperto l'alveare e sono rimasta folgorata, perché ho scoperto un mondo di armonia, un mondo ordinato, 70.000 insetti tutti insieme che lavorano proprio in armonia. E quindi sono proprio rimasta affascinata e ho deciso che ho finalmente preso coscienza del fatto che ero stufa completamente della vita che stavo facendo, che per me aveva perso senso. Interessante, insomma. Adesso proprio vediamo questo, perché poi credo che nella puntata di oggi sia bello proprio scoprire l'esperienza di vita, no? Di persone che sono realizzate nella loro vita, per cui non avrebbero motivo di cambiare, no? Tu avevi un lavoro ed eri anche felice da questo punto di vista. Sì, assolutamente, cioè, diciamo, da un punto di vista professionale, esatto, ero una donna arrivata, nel senso avevo un ottimo stipendio, una ottima posizione, quindi insomma una condizione felice. La mamma direbbe ma chi te lo fa fare, no? Esatto, mollare tutto. Mia mamma anche l'ha detto. Immaginavo. Cosa ti ho fatto studiare a fare? Certo. Un po' il primo momento la sua, insomma, la sua esclamazione. Studiare però ti ha permesso di poi cambiare a un certo punto, però, perché il senso critico nasce proprio anche dallo studio. Tu hai fondato questa azienda che si chiama Belè. Belè come i bambini, come si dice, sei un Belè in milanese, Belè, vuol dire, esatto, sei un bel bambino. Come mi diceva mia nonna, sì, è proprio quello, Belè, diciamo, in dialetto è il termine affettuoso che usavano i nonni un po' per chiamare i nipotini, i propri nipotini, certo. Sì. E io appunto ho lasciato la mia vita precedente, ho aperto questa azienda agricola e mi occupo di apicoltura, però ovviamente ho portato la mia cultura nel lavoro che faccio, quindi comunque rimango come dire legata agli strumenti che avevo prima, quindi l'utilizzo del computer, dei social network, di internet, e unisco a questo la conoscenza, insomma, l'apprendimento che sto facendo dell'apicoltura e di questo antico mondo e di queste antiche pratiche. Ecco, Larissa, praticamente ci racconti che cosa hai fatto? Tu davvero una ti sei svegliata e hai detto voglio cambiare tutto. Che cosa hai fatto praticamente per poter dare una mano a chi magari ha in testa una cosa simile e non sa proprio da che parte iniziare? Allora, bisogna essere pronti a fare il salto, quindi aver maturato nel tempo una consapevolezza di quello che si vuole. Io avevo bisogno di ritrovare senso nei gesti di tutti i giorni, facevo una vita da pendolare faticosissima, ho 3 figlie, avevo proprio perso un po' di vista quello che poteva essere proprio il senso, e quindi ho scoperto nell'apicoltura una pratica che invece di senso ne aveva molto. E io mi accompagno a un maestro, ho seguito un maestro e da lui ho iniziato a imparare cosa fare, come gestire le api, l'ho seguito e lo seguo tuttora passo passo, perché appunto arrivo da un altro mondo, quindi ho studiato, ho fatto dei corsi, però lì c'è proprio un'esperienza che uno deve maturare. E mentre tu quindi proseguivi con il tuo mestiere di prima? Allora, all'inizio sì, e poi ho visto che non era più sostenibile, che dovevo prendere la sfida di fare il cambiamento, perché comunque ho le figlie, il lavoro, diventava troppo, no, da gestire. E quindi ho deciso, adesso faccio la mia scommessa e ci provo. Ma hai cambiato anche casa? No, la casa è sempre la stessa, ho cambiato vita, cioè ho cambiato macchina, ho preso un autocarro e ho venduto la mia auto all'Italia, ho cambiato abiti perché portavo le scarpe col tacco e adesso metto gli scarponcini e niente, ho proprio cambiato proprio stile di vita. Alcune mattine mi sveglio alle 4:30 perché le api hanno dei ritmi da seguire. Che sono loro, certo. Esatto, però tutto sommato rispetto alla mia vita da pendolare, intruppata, ne ho guadagnato moltissimo e hanno guadagnato anche, diciamo, i miei familiari. Indubbiamente. Che cosa hanno detto all'inizio? Beh, allora, il mio compagno mi ha sostenuto tantissimo e le mie figlie anche, perché comunque vedere una che era stressata e ritornata centrata con dell'armonia, insomma, sicuramente è stato un bene per tutti. Hanno detto almeno urla di me, si arrabbia di meno, avranno detto. Sì, e più poi tornavo a casa e le prime volte prendevo un sacco di botte dalle api, punture così, no? E allora cercavano, insomma, di consolarmi, come dire, vedrai che ce la farai. E infatti così è stato. Senti, dal punto di vista economico invece, vedremo che poi delle storie, scusami, ne ascolteremo diverse di storie oggi, vedremo che non tutte poi portano subito a un successo economico, però sicuramente a un successo di vita sì. E parliamo invece del successo eventualmente economico di Belè. Ok, allora diciamo che l'apicoltura rispetto a altre pratiche non ha dei costi iniziali grandissimi, quindi voglio dire, uno può iniziare a prendersi le sue arnie, cioè non ha bisogno dei grandi trattori, di grandi posti, di grandi magazzini, è un'attività che può con piccoli investimenti iniziare. Poi il mio compagno, io avevo, insomma, tenuto via un po' di soldi e sono riuscita a comprarmi un po' di cose, poi con l'aiuto dei familiari e poi usando il canale internet io ho iniziato a vendere il mio miele e le mie cose e quindi, insomma, piano piano l'attività si sta sviluppando, cioè devo dire che sono molto soddisfatta perché comunque vedo che c'è un ritorno, che, insomma, il fatto di fare le cose bene, cercare di fare una coltivazione, cioè un allevamento biologico, il fatto di inserirsi in alcuni canali dà dei ritorni sicuramente soddisfacenti. Ecco, quindi, insomma, sei soddisfatto a 360 gradi, sono solo felice per te e noi lo siamo felici perché un po' c'è una sorta di proiezione, no? C'è un po' di invidia buona ovviamente in queste cose perché è quello che molti vorrebbero fare e poi ci vuole anche coraggio e, come dicevi tu, a un certo punto devi dire sì, il salto lo faccio e basta, devi capire sì. Che e non è semplice per molte ragioni. No, però, insomma, io vedo che tante persone della mia generazione, io ho 38 anni, stanno maturando in questa direzione, perché anche il posto più sicuro in questo momento non è così sicuro come uno l'aveva pensato e forse ognuno deve pensare a reinventarsi anche un po'. Indubbiamente, e questo è bello. Belè.it, senza accento, sapete che su internet i siti non ce l'hanno mai, per avere poi le informazioni, vedere e credo poi anche poter assaggiare il tuo miele, è possibile, certo, vero? Ecco, certo. Quindi, che sarà, immagino, buonissimo, sicuramente perché c'è molto amore, quindi è buono per forza. Grazie Larissa, ciao. Grazie a voi, buona domenica. Buona domenica. Grazie, arrivano moltissimi messaggi da parte vostra, grazie e buongiorno. Daniele scrive: viviamo, cerchiamo di vivere a basso impatto ambientale, ci rende più liberi, ci porta ad avere più autostima su noi stessi, l'autostima appunto. Ora stiamo provando con il nostro lavoro, facendo nascere promuovere.it. Insomma, bisogna essere consapevoli di quello che succede. Adriano Ferluga, buona giornata. Buongiorno, salve, ciao a tutti. Ciao, parliamo di L180, che è una cooperativa onlus, che fa che cosa? Allora, è una cooperativa onlus di Trieste che, tra le varie attività, ha un laboratorio serigrafico che nasce da un retaggio storico di un laboratorio artistico all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Questa cooperativa l'ha in qualche modo rilevato, ha sviluppato un progetto di abbigliamento etico. E mi spiego meglio, noi produciamo t-shirt, felpe, tutto quello che è cotone biologico, e lo importiamo dall'India attraverso la più grossa centrale di importazione di commercio equo, lavoriamo, la stampiamo, la distribuiamo sul territorio nazionale attraverso quasi 100 punti vendita, sempre all'interno del circuito ecosolidale. Le nostre maglie sono dedicate ovviamente all'ospedale psichiatrico, nel senso che tutte le grafiche nascono da questo laboratorio artistico, si sono sviluppate negli anni e, insomma, stiamo avendo un discreto successo, siamo molto contenti, insomma, di come stanno andando le cose. Ecco, quindi voi lavorate sì. In gli spazi di questo che era l'ex ospedale psichiatrico, ovviamente. Sì, esattamente sì, abbiamo cominciato all'interno dell'ospedale psichiatrico, poi per motivi di spazio, insomma, con orgoglio adesso abbiamo acquistato il nostro immobile, insomma, abbiamo la nostra serigrafia e che, insomma, oramai non può star più all'interno dell'ex ospedale psichiatrico, ma ha degli spazi dedicati, insomma, un attimino più strutturati. Certo, Adriano, com'è venuta l'idea di cominciare? Allora, l'idea c'è, le magliette esistevano già dagli anni 80 in realtà, poi insomma venivano un po' così vendute a spizzichi e bocconi attraverso banchetti e cose. Noi abbiamo deciso di dare struttura al progetto, cioè di metterlo in qualche modo, mi si passi il termine, a reddito, cioè abbiamo cominciato a pensare come poter distribuirlo e poterlo vendere sul territorio nazionale, non solamente a livello locale. E la prima idea è stata di di studiare la filiera, nel senso di alle stampe dare un supporto adeguato, cioè la maglia doveva essere etica, non potevamo stampare una maglia all'interno di una cooperativa sociale, però poi magari comprare la maglia in Cina, faccio un esempio. Sì. Abbiamo dovuto abbiamo trovato le maglie insomma realizzate con dei criteri etici all'inizio e poi successivamente anche con cotone biologico. Da quest'anno, sempre con orgoglio, diciamo la nostra maglia è totalmente etica perché è biologica, è equasolidale ed è stampata con tecnica l'acqua, cioè nel senso non viene utilizzata, cioè l'impatto è bassissimo e non solamente in termini di ambiente. Non ci sono prodotti chimici quindi? Assolutamente no, la stampa è ad acqua con inchiostri ad acqua. Ecco. Quindi, e anche la lavandola non viene via, no, sto scherzando, è una battuta la mia. La tecnica d'acqua non è una novità di oggi, esiste certo, un po' da sempre. Direi proprio di sì. Sì. Adriano, poi ti chiederò invece chi lavora con voi, visto che arrivate proprio da un ex ospedale psichiatrico. Quindi, allora, aspetta, Adriano, te lo chiederò tra poco, ci sono gli aggiornamenti sul traffico e poi torniamo a parlare con te. Il riposo del guerriero. Intanto vi ricordo i numeri per i vostri sms che continuano ad arrivare, grazie, 349-238-6666, sono molte le esperienze di vita in questo senso che ci state raccontando. Il numero verde per giocare più tardi al mistero in 24 minuti, 800-24-00-24, c'è Adriano Ferruga al telefono che si occupa della cooperativa Confini Onlus L180. Allora, dicevamo che voi... siete nati da quello che è l'ex ospedale psichiatrico di Trieste e sì. Quindi per voi immagino lavorino persone che hanno vissuto storie difficili. Sì, la mission principale della cooperativa, a prescindere dalla stampa, insomma, la mission principale è l'inserimento lavorativo di persone che appartengono all'area del disagio psichico in qualche modo, no? Insomma, che si integrano e che attraverso esperienze lavorative cercano di reinserirsi nella società in qualche modo. Certo, e ci state riuscendo anche perché... Sì, siamo molto soddisfatti. Voi vendete anche attraverso la rete? No, non vendiamo attraverso la rete perché la scelta è stata di vendere attraverso i canali, insomma, attraverso le botteghe solidali. Insomma, questo... Però insomma siamo presenti praticamente in tutta Italia, quindi insomma non è un grosso problema. Non è difficile, dici? Ecco. Non è difficile, se chiunque sia fruitore insomma, del commercio ecosolidale può facilmente trovare i nostri prodotti. Ecco, allora vi ricordo il sito che è www.l180.it, poi sì, da lì troverete. 180, sicuramente, esatto, chiaramente. Grazie Adriano grazie Ferruga, voi, grazie buona domenica per quello che fai. Ancora altri ospiti, però... Così, anche perché le vostre esperienze continuano a esserci, mi viene in mente di farvi ascoltare questa canzone che racconta proprio di quello che è la nostra quotidianità, la vita. E così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi. Nella vita, a un certo punto cambiare, fare qualcosa. Roberto Peglia, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici Radio 24. Mi viene da ridere perché siccome ti definisco un ex giornalista, capito, non sei mai un ex giornalista, sei un giornalista e basta, poi magari... Scrivi un po' di meno adesso. Il ecco. Tesserino ce l'ho sempre. Esatto, per quello in realtà, dicevo. Non lavoro più davanti a un terminale a fare articoli e interviste, ma pedalo. Ma tu hai sempre pedalato nella vita? Sì. Diciamo che ho unito la passione per la bicicletta ad uno stato di necessità. Come ben si sa, la crisi che imperversa ancora nel campo dell'editoria è arrivata ancora prima e forse in modo ancora più tremendo, e io dopo l'ultimo contratto giornalistico mi sono trovato a spasso, come si suol dire, e allora ho pensato di unire una passione ad una necessità. Allora, ho messo in piedi questa. Ecco, adesso spieghiamo cosa succede, perché gli ascoltatori appunto non lo sanno, stanno per cercare di capire, adesso ci arriviamo. Ovviamente sapete che non voglio mai svelarvi tutto subito. Allora, innanzitutto tu hai scritto anche una sorta di diario su quella che è stata la tua vicenda, che si intitola Diario di un Bike Messenger. Esce proprio a questi giorni, giovedì 17. Speriamo che la data porti bene. Guarda, io sono nato di giovedì 17, non so se porta bene, però a me, insomma, io sono nato. Porta bene all'Italia, magari porterà bene a qualche esatto. Anche a chi legge. Allora, la casa editrice di Ciclo ha pubblicato un mio libro che si intitola Tutta mia la città. Ed è il racconto di 2 anni di lavoro come corriere in bicicletta, come bike messenger. Oh là, allora. Quello che tutti definirebbero un fattorino un po' sfigato perché usa la bici al posto del motorino, diciamo. Perfetto, come sta. Perfetto, giusto. Infatti una delle cose più difficili è stato convincere la mia mamma, che mi ha visto fare il liceo classico, l'università, dare l'esame da giornalista professionista e poi ridurmi a fare il fattorino. Ecco, ripeto, anche appunto un po' così, perché non hai neanche i soldi per comprarti un motorino decente, quindi vai in bici, capisci che... E invece non funziona in questo modo. Allora, nel senso che è una grande iniziativa che non è italiana, nel senso che all'estero, che certo, insomma, su queste cose vede un po' più lungo, esistono già queste realtà. Da decenni, noi non abbiamo fatto altro che copiare una realtà che è a New York, a Chicago, a Londra, a Berlino, a Varsavia, esiste appunto da moltissimi anni. Forse soltanto noi milanesi siamo abituati a vedere i Pony Express in motorino, ma ripeto, il delivery leggero, così potremmo definirlo, è sempre stato fatto in bicicletta e con grandi risultati. Poi l'arrivo di internet, le torri gemelle, quindi tutte le questioni di sicurezza hanno un po' frenato, soprattutto negli Stati Uniti, la patria del bike messaging, questa attività. Però tuttora esistono in moltissime città, metropoli americane, aziende che fanno questo tipo di lavoro, e tantissime anche qua in Europa. Ma basta andare a 60 km da qua, a Lugano esistono le Saette Verdi che da 12 anni lavorano e fanno questo tipo di lavoro, a Zurigo, a tutta la Svizzera, le città svizzere hanno una company di bike messenger. Ecco, allora, cerchiamo di farlo anche in Italia. Indubbiamente, e ci state anche riuscendo, perché so che da Milano avete aperto anche a Bologna. Allora, partiamo dall'inizio, cominciamo a raccontare, poi lo faremo anche dopo il GR. Immagino che tu abbia cominciato da solo all'inizio, nel senso che ti sei così, hai inforcato la tua bici, il tuo caschetto, non so se ti sei già messo una divisa. Come hai cominciato? Cioè, hai chiamato i tuoi amici, fa: oh, se avete bisogno di consegnare una busta, lo faccio io per voi, mi date 5 euro, non lo so, il bene. L'inizio è stato molto soft, io e i miei 2 soci, eravamo in 3, abbiamo iniziato con le nostre bici, con le nostre borse, con i nostri cellulari, con i nostri computer, senza ufficio, senza divise, ancora all'inizio non avevamo. Io ovviamente ho sfruttato un po' il regresso della mia attività, ho fatto dei comunicati stampa, in cui dicevamo, in questo comunicato si diceva che partiva questa iniziativa. Alcune aziende, diciamo tra le più illuminate, sensibili, quelle che hanno davvero una politica green, ci hanno creduto. Ci ha creduto poi un'azienda che produce bici, che ci ha regalato le prime biciclette, quindi abbiamo sostituito le nostre bici con delle bici ben più performanti. Ricordo che il nostro core business è la consegna veloce, noi non abbiamo le biciclette classiche da postino che pesano 35, certo, beh, immagino. Abbiamo bici da corsa, addirittura da pista. Ecco, allora tieniti lì pronto, perché ti chiederò quanto costa, quanto tempo ci mettete, la fatica, quanto si resiste, perché io immagino dopo un'ora io sarei stravolto, però ne parliamo tra poco. Roberto, ti chiedo di restare con noi, c'è il GR e poi ritorno al riposo del guerriero. Il riposo del guerriero. Le 11:07, ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Continua il riposo del guerriero. Oggi parliamo di consumo critico, di vita sostenibile, insomma di un cambio, un giro di vite, ecco, alla nostra vita. È un gioco di parole, un bisticcio che mi piace. Ciao Roberto Peglia al telefono, che è qui ancora. E Roberto è, come lo definisco, un ex giornalista, anche se per me quell'ex non va bene, ma comunque, tanto per citare quello che scrivono di lui. E ha appena pubblicato un libro, uscirà tra poco, che è Tutta mia la città, diario di un bike messenger. A un certo punto, perché non ha perso il lavoro, si è messo a pedalare. Sua passione è la bicicletta, ha detto: adesso sapete cosa faccio? Io pedalo per la città e consegno buste e pacchetti. Dico bene? Ho riassunto bene? Perfettamente. Roberto, allora ho un po' di domande per te. Intanto degli ascoltatori su Facebook, per esempio, hanno scritto che quest'idea di cambiare vita, prima abbiamo parlato con un nostro ospite che ha aperto Belè, questo posto dove si produce miele, lei lavora nel marketing, dice che un po' sono degli snobismi, poi arrivano non so, i prodotti con l'etichetta naturale, invece sono prodotti dalla Cina, insomma è molto pessimista, e poi dice bisogna sempre avere un sacco di soldi per poi riuscire. Invece credo, Roberto, che tu sia l'esempio contrario, non credo che tu abbia avuto un sacco di soldi per cominciare a pedalare. In fondo avevi solo una bicicletta, no? No, infatti, diciamo che il finanziamento iniziale per questo tipo di attività è stato molto molto basso. Per un caso strano della vita, io e Larissa abbiamo lavorato insieme nella stessa azienda, scopro adesso, lei nel marketing e io nell'editoria. Entrambi però appunto abbiamo avuto questa spinta a provare qualcosa di diverso, perché forse è anche vero che i ritmi, gli stili di vita che spesso ci vengono imposti ci stanno stretti. La bicicletta è un po' un paradigma forse anche di questa ricerca di una vita diversa. E si può cominciare anche con poco, è lì che volevo arrivare, no? Certo, non è che certo, uno deve per forza avere un sacco di soldi da investire. Voi avete cominciato con poco. E quanto si guadagna a consegna? Ma si guadagna ancora poco, devo dire che non si diventa ricchi. Dipende, noi abbiamo diversi tipi di contratto con i ragazzi, c'è chi fa, diciamo, ha un contratto a cottimo, più pedala, più fa consegna, più prende, altri hanno una quota fissa e poi hanno una percentuale a consegna, altri dipende da i tipi di lavoro che abbiamo, se sono dei lavori a forfait e quindi loro hanno una percentuale. Però diciamo che un ragazzo che pedala 5-6 ore al giorno, perché di più poi diventa abbastanza stressante, può arrivare sugli 800-900 euro al mese. Io sto pensando, dopo un'ora io sarei stravolto, 5-6 ore non so se riuscirei a raggiungere. Comunque, devo dire che i ragazzi che si sono proposti a lavorare con noi, tra l'altro ricordo che sul nostro sito, che è www.urbanbm.it, c'è appunto una pagina in cui ci si può iscrivere. Moltissimi di questi sono ragazzi che magari il sabato e la domenica prendono la bici e si fanno 100 km. Chiaro, e dice: approfitto, già io sono capace, per cui lo faccio, perché no? Senti, è veramente più veloce dei motorini oppure no? Siamo al... così. Per quanto riguarda il centro storico siamo nettamente più veloci, perché non c'è paragone. Noi possiamo fare dei percorsi che nessun motorino o altro mezzo motore può fare. Per chi conosce Milano, se devo andare nella zona Tortona, di via Tortona, via Savona, soprattutto nella settimana della moda, posso arrivare in Porta Genova, prendo la bicicletta in spalla, ti fai il ponticello, insomma, eccolo là, il ponte verde, certo. Qualsiasi motorino deve fare tutto il giro. Se devo andare da Porta Romana in Corso Sempione, posso attraversare il parco. Noi nei parchi, i parchi per noi sono una scorciatoia incredibile, perché da nessun altro mezzo può entrare nel parco, noi sì, e quindi in questo modo noi possiamo ovviamente accelerare tantissimo. Arriveranno anche i messenger con rollerblade, allora a questo punto è un po' più difficile forse per città come Roma, che hanno parecchie salite. Sì, in altre città è più difficile. Devo dire che Milano non è assolutamente una città bike friendly, perché tra rotaie, pavè, non parlarmene, e soprattutto automobilisti sempre più stressati e nervosi, pedalare a Milano è veramente molto difficile. Poi non esiste una rete di piste ciclabili, ovviamente ci sono qualche pezzettino di pista ciclabile che spesso finisce nel vuoto, mal tenuta, piena di cocci, vetri, radici d'alberi sporgenti, per cui andare sulla ciclabile oggi come oggi paradossalmente è più pericoloso che stare in strada. Discutevo ieri sera di questo. Senti Roberto, prima di salutarti volevo chiederti, sei soddisfatto di questo tuo cambio di vita? Sono soddisfatto perché appunto, da un lato ritengo anche che nel nostro piccolo noi contribuiamo un po' a innalzare una cultura delle due ruote che in questa metropoli milanese non esiste, cercando di avvicinarla un po' alle città del nord Europa dove invece c'è, e questa cultura delle due ruote in queste altre città riesce anche a migliorare la qualità. Ecco, però ho notato che il bike sharing per esempio ha avuto molto successo a Milano e il quindi... bike sharing, nonostante sia partito con qualche difficoltà e ne abbia ancora, è sicuramente un'ottima soluzione nelle città a Veliba, Parigi e Barcellona. Lione. Hanno dimostrato che è stata una grande idea, e i milanesi, nonostante appunto sia molto difficile andare in bicicletta a Milano perché le condizioni strutturali e non i comportamenti degli molto. Automobilisti sì. non lo impediscono, hanno risposto molto positivamente, perché la bicicletta è assolutamente il mezzo migliore per circolare in una città piatta come Milano, relativamente piccola, con temperature tutto sommato neanche tanto rigide, se si pensa a quanto vanno in bicicletta in Olanda o a Copenaghen, e quindi passare alla bicicletta fa bene un po' alla salute, fa bene alla città, fa bene al futuro dei nostri figli. E a noi sicuramente. Ah, sulla salute, poi una battuta te la devo chiedere, hai 30 secondi di tempo. La domanda che adesso viene spontanea è: ma che cosa respirate, le schifezze? E no, ma meglio di no, lasciamo perdere. Come fai a pedalare così? Respiriamo le stesse schifezze che respira una persona che sta chiusa diverse ore in macchina o un pedone. Io ricordo che sul sito internet della FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, c'è una pagina su ciclisti urbani che spiega proprio perché i ciclisti respirano tutto sommato un'aria che non è poi diversa da quella degli altri. Ecco. Perché la bicicletta è più alta e gli inquinanti più pericolosi, più cattivi, sono stanno più all'altezza in base, di passeggino, certo. Perché non si è mai in coda, perché si possono fare strade alternative, eccetera, eccetera. Ecco, quindi inforcate la bicicletta e imparate a pedalare. Oh, diciamolo, che può essere anche un investimento per il futuro, come Roberto Peglia ci ha spiegato. E tra l'altro voi avete aperto anche a Bologna, quindi ci sarà possibilità per qualcuno che voglia pedalare un po' di lavorare. Grazie Roberto. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata anche a te. E in bicicletta sulle autostrade non ci si va, ci sono aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Strade in diretta. Traffico su strada e autostrada in lieve aumento, ma è soprattutto il maltempo a condizionare la circolazione dal nord al sud dell'Italia. Nevica sulla 26 dei Trafori tra Genova Voltri e Ovada e sulla 6 Torino-Savona tra Savona e Niella-Tanaro. Sui settori occidentali del nord piove a tratti intensamente. Allagamenti causa pioggia sulla carreggiata verso Genova della 10, la Genova 20 miglia tra Celle Ligure e Varazze. Al centro al sud soffia un forte vento. Tra Calabria e Sicilia settentrionale il transito è sconsigliato ai furgoni e ai caravan. Torniamo al nord per segnalare sulla 4 la Brescia-Padova verso Brescia tra Peschiera e Sirmione rallentamenti per lavori. Torniamo tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. A me piace far contenti anche gli ascoltatori che ovviamente criticano, commentano, e questo è giustissimo. E allora qualcuno su Facebook, Alessandro se non mi sbaglio, dice e vabbè, adesso sembra che tutto vada bene, che uno cambia vita, così guadagna un sacco di soldi. Ma io proprio all'inizio dicevo che non è sempre vero, a volte ci si guadagna più in umanità che in denaro. Sebastiano, buona giornata. Ciao a tutti e grazie per avermi invitato. Ma figurati, grazie a te, perché hai una bella storia da raccontare. Allora, raccontacela, insomma, neanche la devo raccontare io, sto chiamato apposta. Sì, no, lasciami fare prima una piccola introduzione, sì, no? Vai. A proposito del cambiamento, dato che è quello che tu stai trattando. Allora, secondo me il cambiamento ci si arriva in due modi, o tramite ragionamento, che è una cosa più difficile, oppure tramite l'esperienza. Diciamo che l'esperienza, soprattutto quelle spiacevoli, sono quelle che ti costringono a intraprendere nuove strade. Certo. A me è successo così circa un anno fa, quando perdo il lavoro, un lavoro che mi dava discrete soddisfazioni. Possiamo sapere cosa facevi? Io ero responsabile commerciale di una ditta che faceva macchinari industriali. Quindi era una cosa abbastanza tecnica, era una cosa comunque abbastanza remunerata molto bene, quindi insomma non mi lamentavo completamente. Stavi bene, ecco. Stavo abbastanza bene, sì, dai. Succede che poi un giorno entrano tre personaggi incravattati nel mio ufficio e mi dicono che da domani io non lavoro più in quell'azienda. Quindi da un avvenimento inizialmente tragico, perché insomma io non me l'aspettavo e comunque sai, un licenziamento è sempre una cosa... Da tutti i punti di vista. Sì, sì, è molto brutto. Certo. Infatti, era la prima volta che mi capitava. Comunque, la cosa positiva è che questo avvenimento mi ha aperto la porta ad un mondo che io non conoscevo e che mi ha cambiato profondamente. Quale? Sono cambiato io che vedo le cose in maniera diversa, cioè, come tu sai, io ho aperto un bed and breakfast in Sardegna dopo questo avvenimento, avevo già una casa che avevo comprato 3 anni prima perché mi ero innamorato di Bosa, che è in Sardegna, compro una casa che era da ristrutturare, quindi quando succede questo avvenimento io inizio subito a ristrutturarla e con mia moglie iniziamo a sognare un bed and breakfast. Tua moglie lavorava o non lavorava? No, mia moglie non lavorava in quel periodo. Ecco, no. Quindi lei diciamo è stata, tra virgolette, per lei è stato un pochino più facile, non doveva lasciare niente, l'importante era restare insieme a te, insomma, ecco. Sì, sì, sì, considera che io sono di Padova, in quel periodo noi vivevamo a Modena, sì. Quindi cioè, come dire, cioè, è stato proprio un cambiamento epocale nella nostra vita, no? Cioè, non è che torniamo a Padova, cioè proprio andiamo in Sardegna. Andiamo in Sardegna. Cioè, e quindi ci mettiamo al lavoro, iniziamo a ristrutturare questa casa. Bosa è sul mare, scusa, non so dov'è ubicata. Allora, Bosa è sul mare, ma ha delle caratteristiche che sono uniche, perché è a 1 chilometro sul mare e che è una delle coste del mare più pulite d'Italia. È un paesino medievale arroccato in una collina e dove passa un fiume, l'unico fiume navigabile della Sardegna. Quindi è una cosa meravigliosa che chi ci viene poi vuole comprare una casa, come è successo a me. Comunque... i prezzi per le case in quel momento erano ancora abbastanza abbordabili, mi sono comprato una casa del 600, l'abbiamo ristrutturata con mille difficoltà, però dopo alla fine ci siamo arrivati. Ecco, allora voi avete aperto questo bed and breakfast blu, sì, con 5 stanze, mi ricorda un po' le case che si vedono nel film Mamma Mia, quelle in Grecia, tanto per darvi un'idea, e 3 stanze sono per gli ospiti. Sì. E una per voi due, cioè tu e tua moglie, e una, sì, per il baratto, nel senso che, sì, voi avete una stanza da dare a chi vi offrirà una propria stanza da un'altra parte, no? Sì, così. Sì, sì. Se fai le vacanze in un altro posto, magari a New York, uno di New York viene in Sardegna a Bosa da voi e voi andate a New York da lui. E ne abbiamo già parlato, tra l'altro, del baratto anche per quanto riguarda gli appartamenti. Ma come va questo bed and breakfast? Va benissimo, cioè va... Va che noi non ci aspettavamo un successo del genere, ecco. Cioè che noi all'inizio volevamo solo pagarci le spese, fare delle belle esperienze, cioè dopo alla fine insomma si è rivelato un successo. Ecco, tu dici che avete guadagnato forse però più in umanità che in denaro. Sì, no, quello sicuramente, cioè quando ti dicevo che mi ha cambiato profondamente, è che anche se io oggi come oggi dovessi ritornare a fare la vita di prima, quindi di responsabile commerciale, io lavorerei e penserei in un modo diverso, perché dopo quando quando tu sei in un ambiente, sei richiuso in quell'ambiente, conosci sempre quel tipo di persone, no? Facendo un'esperienza del genere, dove trovi la signora che ti ha preparato le marmellate oppure i dolci e ti chiede di barattare con due giorni al mare, oppure quando vedi un musicista che ti dice io ti suono per tutta la notte nel tuo terrazzo, cioè conoscere tipi. Quindi la cosa straordinaria è che può venire da voi anche chi ha qualcosa da offrire che non sia necessariamente denaro, ma semplicemente una propria esperienza. Ah, beh, assolutamente quello, certo, esperienze, professionalità. Certo. E questa è la cosa straordinaria, perché sì. E questo dimostra che c'è la possibilità anche così di farsi un po' di vacanza, in questo caso, semplicemente offrendo, come una volta, con il baratto, la propria professionalità, qualcosa che si può dare in cambio e che non sia denaro. E questo sì. Apre veramente le porte a molte possibilità. Bravi. Io voglio ricordare, voi avete un gruppo su Facebook, si chiama Blue B&B Bosa. Blue B&B Bosa, abbiamo anche un blog. Si chiama bluebosa.blogspot.com, e se mi dai due minutini ti vorrei spiegare. Te ne do uno, perché c'è Davide Paolini che sta aspettando. Dimmi, vai. Lo sviluppo di questa idea, che sarà di creare una comunità del baratto che si chiamerà la Repubblica del Baratto. Basta. La Repubblica del Baratto, ci piace. Nel mio blog poi magari troverete delle altre informazioni. Va bene, allora adesso metto un po', faccio un po' la lista delle cose che posso offrirvi e delle professionalità, e magari riesco a farmi qualche giorno a Bosa di vacanza. Sicuramente, sei benvenuto. Grazie Sebastiano, okay. E saluta anche tua moglie, ovviamente, che con te condivide questa bella esperienza. Buona domenica. Ciao a tutti, grazie. Che meraviglia, si sente un po' di invidia, lo so che si sente. Il gastronauta Davide Paolini, andiamo ad aprire un bed and breakfast da qualche parte? Ma come no, molto volentieri, ci sto pensando seriamente. Io vengo come ospite, no, però se vuoi posso fare molte cose, davvero, posso intrattenere il pubblico, fare i giochi, sì. Insomma. Io vorrei fare il direttore, basta però. Beh, certo, devi assaggiare tu, altrimenti. Sì. Senti, oggi stiamo parlando appunto di vita sostenibile, allora ti faccio già una domanda perché è arrivata negli SMS una delle domande è: perché non è segnalato nei supermercati, sulle etichette, il chilometro zero? Ma come si fa a segnalarlo sulle etichette? Scusami, se uno un prodotto lo produce a Milano, l'etichetta poi magari va a finire in un negozio, che ne so, a Vigevano. Cioè andrebbe stampata di volta in volta nel posto dove si distribuisce, quindi diventa un caos tremendo. Ma poi secondo me questa storia del chilometro zero è molto bella dal punto te di vista apposta, del marketing o di altro, ma insomma non facciamo così, non creiamo dei miti che poi io vorrei vedere ogni volta quando si parla che il prodotto è a chilometro zero veramente da dove viene. Ma poi c'è un altro punto secondo me fondamentale su questo. Tra l'altro ti voglio dire che io sono a Firenze e sto girando tra 250 artigiani del cibo. Sì. Quasi tutti al loro paese sono chilometro zero, ma qui sono a Firenze e non potrebbero essere chilometro zero, ovviamente. Chiaro. Però tornando a questo, volevo dire che mi fanno molto ridere, perché certi prodotti, ad esempio il formaggio, il caseificio può essere chilometro zero di un luogo, però bisogna vedere da dove arriva il latte, cioè i salumi possono essere chilometro zero dove sono lavorati, ma il maiale da dove arriva? Certo. Cioè, quindi bisogna fare un distinguo tra la materia prima e il tipo di lavorazione. Certo, il chilometro zero forse assoluto può essere per la frutta e la verdura, ma sul resto bisognerebbe sapere se la materia prima coincide col luogo di lavorazione. Questo è il primo punto. Poi non è detto che a chilometro zero le cose siano le migliori. Certo, non c'è il trasporto, di conseguenza non c'è il... Non sì, c'è, è, l'impatto, diciamo, è l'impatto ambientale che cambia, no? Ecco, sì, che quello cambia. Sì. Però non si può vivere di chilometro zero. Ci sono aree dell'Italia ricchissime di prodotti, ce ne sono altre molto, molto povere. Ce ne sono molte che sono ricche di formaggi, ma non hanno altri prodotti. Allora la gente cosa fa? Mangia tutti i formaggi, mangia sempre formaggi. Certo, diciamo che in Sardegna i 383 centenari, mi raccontava questo grande professore che li sta seguendo la loro dieta, la loro alimentazione è basata su pane e formaggio. Perché? Perché non trovano altro, più chilometro zero di quello sicuramente si muore, ma non credo. Ad esempio, dove manca olio, con cosa si condisce con quali si fanno i condimenti, o da altre parti dove non c'è il mare e non si può mai mangiare pesce perché non c'è chilometro zero. Non avrebbe senso, chiaro. Oddio, non creiamo dei castelli, certo, è sempre meglio mangiare dei prodotti e che sono prodotti vicino al luogo di somministrazione e dove si mangia. Su questo mi sembra che sia lapalissiano e non ci vogliono dei geni del chilometro zero. Però sicuramente non si può vivere di chilometro zero. Indubbiamente. Tanto si limita molto, secondo me, l'alimentazione, e si limita molto anche la creatività di chi cucina. Quindi certo, dove si può, ben venga al chilometro zero. Ma ora non ne facciamo. No. Io invece credo che più che altro bisogna curare che i prodotti siano, dal punto di vista igienici, ben fatti, siano salubri e ci sia un controllo sulla sicurezza alimentare. Ecco, più importante è quello che si definisce il consumo critico, quindi sapere cosa si sta mangiando o comprando. Credo che quella sia l'unica cosa davvero importante, no? Questo è fondamentale. Questo è fondamentale perché a chilometro zero si possono produrre anche delle porcherie. Esatto, vicine, ma porcherie comunque. Certo, che non c'è controllo sulla qualità, non c'è controllo sulla salubrità, non c'è controllo sulla sicurezza alimentare. Taste fino a quando sarà? Fino a oggi o anche Taste, domani? No, fino a domani sera. Okay. E diciamo che arrivano da tutta Italia, appunto, produttori di salumi, formaggi, dolci, pasta, cioccolato, insomma c'è un po' di tutto. Diciamo che la cosa meno presente è il vino, perché questa manifestazione è nata per la gastronomia, e non per altro. Perfetto. Quindi diciamo che questa è la limitazione. Grazie Davide. Allora, buon proseguimento di giornata. Spero che non piova a Firenze, ma non lo so. Piovendo. Ecco, vabbè. Amen. Allora, ci sentiamo domenica prossima. Ciao, grazie. Ciao. E ci colleghiamo ancora a Cristina Carpinelli. Sì, buongiorno. Ecco, per gli aggiornamenti su quello che sta accadendo in Giappone in questo momento. Sì, aggiornamenti in tempo reale, perché è arrivata proprio adesso l'agenzia che purtroppo non aspettavamo. Comunque dice che le barre di combustibile al reattore numero 3 di Fukushima hanno subito danni, i tentativi di evitarlo, questo quanto ha detto proprio pochi istanti fa il ministro dell'economia e dell'industria giapponese, dice i tentativi di evitarlo non hanno avuto effetti. Poi di questo ci occuperemo nello specifico anche all'interno del giornale radio e nel corso anche degli approfondimenti che via via faremo nel corso di questa mattinata, grazie anche a degli esperti che ci spiegheranno bene che cosa significa e quale impatto avrà questo nuovo incidente, appunto, a questa centrale nucleare di Fukushima. Per quanto riguarda le vittime, invece, sono 1.800 tra morti e dispersi ufficiali, 300.000 gli sfollati, poi ci sono, come dicevamo, altre 11.000 persone scomparse nelle due prefetture più battute dallo tsunami, Miyagi e Fukushima. Ormai la polizia però comincia a inserirle nella lista dei morti. Sono numeri ovviamente drammatici e soprattutto provvisori, che ci raccontano un sisma che ha colpito il Giappone venerdì e che ha travolto la costa nordorientale del paese. L'area di Sendai, la capitale della prefettura di Miyagi, è una delle città più disastrate. A distanza di due giorni cominciamo a sentire anche le voci dei sopravvissuti e ve le stiamo facendo sentire, perché questa storia terribile non ancora finita, come dicevamo, racconta anche tutto un popolo e la capacità di questo popolo di rimanere composti anche di fronte al dolore. That's my name. Questo è il mio nome nella lista dei dispersi. Lo tsunami ha spazzato via la mia macchina e il fuoco ha completamente distrutto la mia casa. I miei figli saranno preoccupatissimi per me. I telefoni non funzionano e sono riuscita a mandare solo un messaggio. Voglio far sapere ai miei cari che sono viva e sono qui. Tutto è andato sotto sopra. Dopo lo tsunami, la nostra casa è andata distrutta. Abbiamo perso tutto. Il mio unico pensiero era salvare mio nipote. Qui al ricovero tutti ci stiamo aiutando l'uno con l'altro. Abbiamo ricevuto soccorsi. Io sento che riusciremo ad andare avanti. Ecco, queste sono le storie che stiamo raccogliendo nel corso di questa giornata e che vi faremo sentire, grazie anche appunto al tuo spazio, e per ora direi che è tutto. Grazie Cristina, poi sentiremo gli aggiornamenti ancora nel GR di mezzogiorno. Grazie ancora, tra pochissimo ancora il riposo del guerriero. Il riposo del guerriero. Sono 1.000 euro per voi da spendere su libreriarizzoli.it. un mistero in 24 minuti. Questo è il premio per chi riuscirà a risolvere il mistero, però più indizi vi farò ascoltare e più il premio si abbasserà. Però partiamo da 1000 euro che sono molti, potrete sicuramente sfruttarli benissimo. La risposta può essere, come sempre, una notizia della settimana oppure un personaggio, qualcosa che ci appartiene, che conosciamo tutti. E, il numero per partecipare 800 24 00 24, ed ecco il primo indizio di questa settimana. Passati 15 anni, questa canzone dei Simply Red, straordinaria, la voce di Mick Hucknall, indubbiamente bellissima, era Angel, che sta per angelo, dice vorrei un angelo nella mia vita, un angelo che mi così riuscisse a far sentire libero. Pasquale da Aosta, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Com'è Aosta? Vedi, le montagne sono belle imbiancate intorno a te. Allora, le montagne non si vedono perché sono dentro le nuvole. Ah, così no? Proprio oggi, vabbè. Pioggia, vento, comunque sì, sta nevicando in alto, sopra i 1500 più o meno sta nevicando. Va bene, allora per chi ama la tavola o gli sci, insomma, sapete cosa fare la settimana prossima, magari fuori, per chi può, insomma. E allora, Pasquale, noi abbiamo un indizio, ci sono 1000 euro per te, una canzone straordinaria. Tu hai pensato di avere l'angelo custode da piccolo, lo cercavi alle tue spalle? Assolutamente no. Ah, non eri di quelli che si voltava di scatto sperando di fregarlo, ma poi invece lui rimaneva appiccicato. No, non ci ho mai pensato, sinceramente. Allora, avevo le idee chiare già da subito, però questo non va bene. Un po' bisogna sognare, almeno quando si è piccoli. Ma neanche a Babbo Natale credevi, o a Gesù Bambino? No, quello sì. Ah, quello sì, lo aspettavi. Natale, che mi svegliavo sempre prima per cercare di beccarlo mentre metteva i regali. Arrivavo sempre tardi, poi ho trovato i miei genitori, questo è un altro discorso. Allora, Pasquale, cosa vogliamo fare? Allora, niente. Da subito mi viene da pensare al caso del loft, dell'atelier al caso di Loft lavoranti. Batman, diciamo così. Esattamente, questo dici. Non si è capito ancora che cos'è, se è una casa, un atelier o cosa. E niente, perché... Ma sei stato Angel, chiaro? Lui si chiama Gabriele. Gabriele è un angelo molto popolare. E quindi mi è venuta in mente questa come cosa. Bravo Pasquale, l'associazione mi è molto piaciuta. Non so dirti se i 1000 euro sono tuoi, te lo dirò più tardi però. Di Roma. Grazie. Grazie. Ciao. A te, grazie. 800 24 00 24, c'è Enrico da Brescia. Pronto? Pronto? Eccoti. Sì, pronto, ciao Stefano. Ciao Enrico. Allora, noi abbiamo ancora 1000 euro e una risposta. Cosa vuoi fare? Ma guarda, io ero tentato di dare anch'io la risposta subito. Ma avevo avuto un'idea. Sì. E te la do subito. Ah, ok, rimani anche tu. Sì. Ho pensato al ministro Angelino Alfano che ha presentato la riforma della giustizia. Perché l'hai visto come un angelo? Com'è? No. Si chiama Angelo, allora è stata già, è vero. Una situazione di idee. Hai ragione. Ciao Enrico, bravo. Buona ciao, domenica. Buona ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Marcello da Forlì, buongiorno. Buongiorno. Ciao Marcello, siamo ancora a 1000 euro. Ce li ho qui, guarda, sul tavolo. Io devo ascoltarlo anche. Guarda, sai che fai proprio bene, ma non per altro, perché c'è un'altra bellissima canzone, volevo ascoltarla. Eccola qua. Senti sentite il tiro del basso di questa canzone, veramente. No, mi rendo conto, adesso stavamo parlando così fuori onda anche con Paolo Corleone, che è regia, no? E dicevo, ma la musica oggi, no? Cioè, David Guetta, per esempio, va bene, mi piace molto, però poi i riff che vengono usati per costruire la musica sono questi. Cioè, si prende dal passato per andare avanti, però insomma, è bello anche ascoltare. Sta tornando, la musica risuonata, meno male. Abbiamo corsi e ricorsi, come sempre. Scusa Marcello, ho divagato, perdonami, ma mi sono lasciato prendere dai Matt Bianco di Whose Side Are You On, che tradotto vuol dire ma tu da che parte stai? Ecco, tanto per intenderci. Allora, io farei una cosa, Marcello. La conoscevi questa canzone innanzitutto, per curiosità? Il titolo è che il cantante, no, però l'avevo già sentita. L'avevi già? Ma quanti anni hai, Marcello? 28. Ah beh no, 28 lo sei perdonatissimo ovviamente, vabbè, era possibile anche che tu non avessi mai ascoltata. Allora, Whose Side Are You On, Matt Bianco, un gruppo molto famoso con la voce di Beja, e appunto Da Quale Parte Stai è il titolo tradotto dalla canzone, prima è Simply Red con Angel, Angelo. Io ti lascio pensare, Marcello, poi mi dai la risposta, gli aggiornamenti sul traffico. Un mistero in 24 minuti. Marcello, hai pensato? Sì, ho pensato. Hai pensato. Avevo un'idea, il secondo inizio mi ha fatto cambiare completamente. Bene, bravo. Quindi? Allora, red, bianco, se mi metto da dire italiana, quindi dico l'Italia che compirà 150 anni la settimana prossima. Grazie, ciao Marcello. Ciao. Grazie. Avremo anche uno speciale noi che partirà il 16 alle 21. Abbiamo Sara, buongiorno, dalla buongiorno. Provincia di Parma. Ciao Sara. Buongiorno. Allora, da quale parte stai? Abbiamo Angeli. Cosa vuoi fare? Altri indizi? Un altro giro? Altro indizio? No. No, ah, va bene. Ci provo. Sì, vai. Io dico il tricolore. Il tricolore, grazie Sara. Ciao. Buona giornata, ciao. Marina, dalla provincia di Reggio Emilia. Eccomi. Eccoci, ciao Marina. Ciao. Buongiorno. Mi hanno bruciato. Ti hanno bruciata? Sì. Ti sei fatta male? No. No, volevo dire l'Unità d'Italia, ma l'hanno già detta, vero? Il 17 marzo. Va bene, allora il 17 marzo. Ti piace? Festa. Poi dividiamo, se vinci dividiamo in due. Oh, va bene. Scherzo Marina, grazie, ciao. Ci sono tante cose. Francesco da Torino, buongiorno. Buongiorno. Ciao, allora ciao. Io dico Angelino Alfano. Anche tu, ma l'hanno già detto, sai, Francesco. Ah, l'hanno già detto, perché sì. Purtroppo secondo me quella è la risposta, perché vabbè, la prima canzone è quella lì, poi Da Che Parte Stai, perché appunto in questa fase in cui c'è la riforma della giustizia in dibattimento, lui sta facendo un po' l'osservatore, cerca di sondare possibili contatti con l'opposizione, cerca, insomma, è una posizione un po' così di mezzo. Senti Francesco, vogliamo allora dire la proposta di legge a questo punto? Adesso mi fai fare cose difficili. No, perché Angelino Alfano l'hanno già detto, allora sposto alla proposta. Ah, okay. La proposta di legge della riforma della giustizia. Certo, la riforma della giustizia, certo che intendevo quella, perché lui è sì, quello, certo. Va bene, allora facciamo così, anche per cambiare, capito? Perché l'hanno già fatto, almeno magari la notizia è proprio quella. Non va è bene. Il personaggio, ma la notizia. Grazie Francesco. Grazie a voi, ciao. 800 24 00 24. Davide dalla provincia di Genova. Davide dalla provincia di Genova non c'è. Massimiliano da Pordenone. Sì, ciao Stefano. Ciao Massimiliano. Aspetta, allora, che scrivo il tuo nome, ci metto un po'. Massimiliano, lungo, Massimiliano. Aldo non ti piaceva. Sto scherzando. Allora, Massimiliano, cosa dobbiamo fare? Abbiamo solo due indizi, ancora 500 euro. Sì, io volevo dare la risposta. Ah, già anche tu così subito, sui due piedi. Vai. Io avevo pensato a Michael Jackson. Perché per la notizia che è uscita della possibile castrazione chimica che ha avuto, diciamo, da bambino. Certo che non lo lasceranno mai in pace. Non possiamo solo ascoltare le sue straordinarie canzoni e basta? Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Massimiliano, scusami, dicevi... Sì, potrebbero lasciarlo in pace, ma purtroppo è così. Infatti, cioè io dico, ascoltiamo bene le sue canzoni, apprezziamolo per quello che ha fatto, ci dispiace molto non ci sia più, però andare a indagare così mi sembra veramente, vabbè. Però Massimiliano, ti ringrazio di averci dato questa risposta. Grazie a te, Stefano. Grazie. 800 24 00 24, c'è Francesca da Biella. Francesca. Buongiorno Francesca. Buongiorno, niente, anch'io sono stata bruciata dalle due donne. Ma magari un altro indizio no, per capire cosa succede. Guarda, no. Ma io sinceramente mi sono tanto basato sulla canzone dei Simply Red. Sull'Angelo. La canzone di Matt Bianco, quindi sì. Ho preso Rosso Bianco, adesso aspetterei una canzone dei Green Day. Però... vuoi sentire il terzo indizio per vedere dove ci sposta? Dai, proviamo. Terzo indizio. Al ritmo dei semafori, io resto immobile, chiudendo gli occhi per riaprirli altrove, riaprirli altrove. Sempre così volante con le note, come se fosse su una montagna russa, no? Samuele Bersani. Questa era A Bologna. Come vedi, Francesca, niente ha a che fare con quello che pensavi. Niente, adesso mi viene in mente Bersani, però. Vedi? Vuoi provarci a dire Bersani, visto che questa canzone si intitola A Bologna, Samuele Bersani. Vabbè, dai, allora facciamo il corteo del tricolore. Il corteo? Sì. Grazie Francesca, buona giornata. Bene. Certo, grazie a voi, ciao. Anche noi lo speriamo. Pina, buongiorno, siamo a 300 euro. Buongiorno, adesso quest'ultimo pezzo mi ha un po' spiazzato. Però io avevo pensato all'inizio un articolo che ho letto pochi giorni fa in una rivista rispetto a, mi sembra, una principessa di Svezia che dice che comunica con gli angeli, vede gli angeli, e il padre, il re, appunto, si è dissociato dicendo che comunque per lui la cosa più importante era la felicità dei figli, ma che comunque si dissociava da quello che pensava la figlia, insomma. Ho pensato a questo. Però l'ultimo inizio è un po' spiazzato. Pina, però ti ringrazio per aver tirato fuori questa notizia dal tuo cilindro. Ti ringrazio molto. Grazie a voi. Ciao Pina, grazie. Allora, cosa succede? Che è finito il tempo e abbiamo un vincitore che è Sara, eccola qua. Ehi, eccomi. Eccoti. Bene, che bello. Adesso però voglio dire che Marcello ti ha aiutata, diciamo la verità. Sì, sì, perché io avevo in mente tutt'altra cosa. Poi in realtà mi ha instradato lui, sì. E vabbè, ho provato col tricolore e è andata bene. Marcello. Ah, non c'è, è caduto purtroppo. No, perché a questo punto c'è almeno un libro di regalarglielo. Va bene, anche due. Per forza. Ci sono 500 euro per te. Era proprio il tricolore Angel, in Simply Red, Who's I W On, in Bab Bianco. Poi a Bologna, perché dovete sapere, non sapevo neanche io, l'ho scoperto, che Luigi Zamboni e Giovanni Battista nel 794 erano studenti all'Università di Bologna e unirono proprio il bianco e il rosso delle rispettive città al verde, il colore della speranza, e quindi insomma è nato lì il tricolore. Questa era la risposta per introdurci a quello che saranno i festeggiamenti della settimana prossima, e quindi era un modo ovviamente per festeggiare anche da parte mia Unità d'Italia, anche se la puntata di settimana prossima del riposo sarà proprio sui 150 anni visti però da un altro punto di vista. Sara, complimenti. Grazie, ciao, ciao. Ancora complimenti, 500 euro per lei da spendere su Libreria Rizzoli .it. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Claudia Carusi, a Paolo Corleone in regia. Grazie a voi come sempre per la vostra partecipazione. Buona domenica da Stefano Gallarini, ci sentiamo la settimana prossima, come sempre alle 10 con il riposo del guerriero, e parleremo dei 150 anni, come sempre, visti sotto l'occhio del riposo del guerriero. Buona domenica.